Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio e senza tanti preamboli, un bentornato di cuore a un monumento come Dino Zoff. Ciao Dino. Ciao, ciao. Ciao Dino. Senti, tre panni tu hai indossato in carriera. Lunga, molto lunga, quella da giocatore, abbastanza quella da allenatore e anche un'esperienza da presidente. Ora, io avrei intenzione di interrogarti su tutte e tre queste tue avventure professionali. Vado? Vai. Allora, calciatore, soprattutto portieri mi interessa, perché io continuo a vedere e anche molti ascoltatori che scrivono, per esempio qua una mail di Cristian Frassoni da Arsiero, Vicenza, della settimana scorsa, che mi chiedeva di interpellare un portiere autorevole. Beh, insomma, un portiere autorevole più di Zoff, farei fatica a pensare chi. Su quel, per esempio, partendo da quella punizione di Cristiano Ronaldo della scorsa settimana in Coppa, per carità, giù il cappello a chi tira, eccetera, ma cosa può fare i portieri? Sappiamo che oggi i palloni sono più leggeri, sappiamo che non sappiamo, perché credo che i palloni abbiano le misure, il peso, sempre più o meno con un po' di tolleranza, come sempre, probabilmente sono particolarmente elastici, allora magari possono prendere delle traiettorie diverse. Io che sono vecchio e che giocavo negli anni 70 in Inghilterra, avevano i mitre, era scritto così, poi non so se si dice mitre o maitre, eccetera, ed erano elasticissimi ed erano come i palloni da adesso, ecco, quindi direi che noi il calcio ha sempre poca memoria, sì. Però effettivamente con quei palloni là e con questi qualche problema c'è. Quindi diciamo che il problema si è internazionalizzato, una volta era soltanto in Inghilterra. Ecco, probabilmente sì. Ecco. Ma quindi, per esempio, adesso vado frugando nella memoria, quella famosa e memorabile sera del 73 in cui per la prima volta batteste l'Inghilterra sul suo campo con un gol di Fabio Capello e tu parasti anche le mosche, il pallone era già uno tipo quelli di oggi? Sì, era quello. Ah, però. Era quello. Hai capito. Bene, va bene. Allora, tornando al portiere, certamente Ronaldo ha tirato una buona punizione, ha scavalcato la barriera, è venuto giù. Certo, una responsabilità del portiere c'è indubbiamente, perché ha fatto un passettino e poi... Però effettivamente insomma, ha fatto un bel tiro, insomma, di gol ne fa diversi, ecco, questo bisogna ammettere che ha veramente un calcio particolare. Sono diventati più bravi i battitori, perché insomma io faccio un po' fatica a pensare che, con tutto rispetto per quello di oggi, possano avere dei piedi migliori di Zico, di Platini, di Maradona, di Mariolino Corso, insomma di tutti gli specialisti che tu hai visto o con cui magari ti sei misurato. Sì, di cui io anche ho preso gol. Beh, capitava, credo. Sì. No, no, ma ti dirò che adesso veramente ci sono degli specialisti al pari di quelli, e che ce ne sono di più adesso. Credo che la media tecnica di una squadra di calcio sia migliorata tantissimo, ecco, mentre un tempo c'erano quei tre o quattro o due giocatori in una squadra straordinari, il resto tecnicamente i difensori erano anche molto limitati, erano più difensori da adesso, sì. È chiaro. Ah, questo sì. Però diciamo la media si è alzata tecnicamente, quindi sì, sono molto in grado di tirare delle punizioni, e poi c'è l'applicazione con ciò che magari una volta si tirava non sempre la punizione, tiravano tutti in porta, ma non con quell'assiduità che c'è adesso. La cosa che sorprende, secondo me, comunque, che è cambiata un po' rispetto a una volta, è questa. Una volta avevi i grandi specialisti dai intorno ai 20 metri, diciamo, che calciavano morbido e sorvolava la barriera e a quel punto diventava davvero difficile. Però dai 30 a palla ferma era un po' più difficile. Adesso si vedono, non dico un sacco, ma si vedono parecchi gol comunque anche così. Tu oggi, come quando ti trovassi davanti un Cristiano Ronaldo, uno di questi battitori da molto molto lontano, tu che faresti la barriera e che tipo di barriera e come? Ma guarda, da lontano tu parli con me da ridere, mi hanno accusato anche di non vedere la palla. Sì, no, dopo 78, quindi. Questo come no? Quindi, No, no, direi che la barriera va sempre fatta. Poi certamente non c'è bisogno di una barriera di quattro uomini. Quando metti tre, uno deve stare già fuori, perché se tira giro, quindi che ti porti via magari una parte di porta, basta. Ecco, credo che sia quella la misura, tre uomini a quella distanza lì. Certo. Se no sei spostato troppo da una parte e poi se tira come ha tirato non ci arrivi. Senti, quest'anno mi pare che si sia visto qualcosa di, insomma, non dico particolarmente nuovo, non dico di fenomenale, ma qualche portierino giovane un po' interessante, parlo di Italia, che è salito alla ribalta, per esempio a Cagliari, forse a Catania si è visto? No, qualcosa si è visto, non so di quanto giovani sono, però ecco, però effettivamente... diciamo, io aspetterei un'altra stagione, perché poi è lì il momento. Ecco, per una stagione può capitare bene a tutti, come a una squadra, a un allenatore. Quindi direi che la riconferma l'anno dopo è molto importante. E poi è quella che fa testo. In compenso è una stagione difficile per Buffon, questo è un dato oggettivo. Ha avuto, dopo tanti anni, ha avuto i suoi primi problemi fisici. No, mi pare nell'autunno scorso, abbastanza, o comunque non erano i primi, ma insomma erano un pochino più seri, schiena, eccetera. E mi pare che oggettivamente abbia fatto e faccia un po' di fatica a tornare il Buffon che ricordavamo. Ma no, io non credo. Sì, beh, insomma, fuori come è stato lui 3 mesi, insomma, non deve essere stata una cosa leggera, ecco. Mm-hmm. Parli con me che ho giocato 11 anni di seguito, insomma. No. 11 anni di seguito senza saltare una partita, eh? Senza saltare una partita, certo. Discreto. Ma io non sarei così negativo, insomma. Sì, magari ha qualche titolo in meno rispetto a qualche tempo fa, ma non credo sia cambiato molto. Ecco, è guarito, ha un'età che gli permette ancora di andare avanti a lungo. Direi che sì, quando succede qualcosa perdi un po' l'alone. Magari prima te l'avevano dato un po' troppo grosso, ecco. E adesso magari te ne tolgono un po' troppo, però sì, insomma, è sempre il migliore. Sì, certo, è un'esperienza in fondo che hai passato anche tu, in cui dovresti un po' riconoscerti, no? Nel senso che tu a suo tempo e lui adesso avevate e aveva lui abituato talmente bene i tifosi o comunque gli appassionati, okay, che un gol normale, semplicemente normale, o un miracolo non fatto diventa, non dico una papera, ma diventa un punto interrogativo. Eh beh, certo, insomma, si aspettano sempre tutti, ma è giusto che si aspettano così. Uh-huh. Io al contrario di lui, io mi sono sempre stato responsabile, mi sento sempre responsabile, o mi sentivo dei gol che prendevo, forse per arroganza, per poca umiltà, insomma. Lui invece ha detto che non aveva colpe. Uh-huh. Però insomma, capita, poi credo che passi tranquillamente. Sono problemi che vanno e vengono. Senti, da allenatore invece adesso, insomma, i grandi modelli estetici di riferimento calcistico oggi sono due: sono quello inglese, rappresentato da più squadre, insomma, tra l'altro, ma in particolare dal Manchester e forse dal Liverpool quest'anno. Quindi di questo calcio all'inglese proprio, di una volta, poi rivisitato da molti interpreti non inglesi di scuola e quindi arricchito da questo punto di vista, o il modello spagnolo, che è questo rappresentato al massimo livello dal Barcellona in questa stagione, che è questo calcio rasoterra, insistito, tecnico, leggero, lo stesso calcio in fondo che ha vinto gli europei lo scorso anno, se vogliamo, quindi già con qualche credenziale. Quale di questi due ti piace di più? Ma allora, mi piace di più quello spagnolo, perché è giocato sempre tecnicamente, eccetera. Certo, lo spirito inglese mi ha sempre affascinato, ecco. E quindi direi che vanno benissimo tutti e due, perché lo spirito inglese, anche se ci sono pochi giocatori inglesi, delle poche sceneggiate, dell'andare avanti, di non essere fiscalissimi sui falli, di una certa correttezza nella determinazione, ma sempre appassionato. Io ho sempre fatto una colpa al calcio italiano di troppa furbizia, e poi dopo la troppa furbizia a volte si paga, ecco, perché certo, non è possibile che in ogni scontro ce ne sia uno per terra, uno si tiene il naso, l'altro la gamba, oppure a cercare i rigori. Sì. Ecco, io per esempio ho visto una partita dell'Under 19, non so, quello di Piseda, un amichevole con la Norvegia un mese fa, un mese e mezzo. Un bel giocatore nostro è andato in area e poi si è procurato un rigore. Io l'avrei picchiato, ha vinto 1-0, io se rientrava negli spogliatoi con me l'avrei redarguito pesantemente, perché ha allargato la gamba per farsi prendere il rigore e tutti l'hanno applaudito. È una vergogna anche con i giovani, capito? Bisogna, l'etica viene prima dell'utilità. E questa invece di noi l'utilità viene prima di tutto, poi tu vinci e va tutto in cavalleria e va bene. Senti, l'etica viene prima dell'utilità, diventa denuncia immediatamente la tua anagrafe, Dino. Cosa dici? Vabbè, Soldati diceva che io ero un cavaliere dell'Ottocento. Ecco, parliamo di Mario Soldati. Va benissimo. Quindi 28, vado a memoria, ma credo di non sbagliare. Però lo spirito, lo sport deve avere certi principi, se no diventa spettacolo. Se è spettacolo vado al circo, vado a vedere una commedia, insomma. E se perde tutte le prerogative di sport, siamo fritti. 28 febbraio 42 per l'anagrafe, il monumento di Dino Zoff che ancora antepone l'etica alla cosiddetta filosofia del risultato. Vado in ordine sparso. Il gap col resto d'Europa, secondo te, che si è rivisto quest'anno, sia pure abbastanza di stretta misura poi nei confronti diretti delle tre italiane con le tre inglesi, e invece sembra, come dire, risaltare fuori di più, no? Vedendo i finali di stagione, eccetera, anche senza confronti diretti. Questo gap, secondo te, è colmabile in una stagione? No, io credo che sia colmabilissimo. Sì. Ti dirò che non... Se rientriamo nello spirito, tu allora prima mi hai dato del vecchio. Io ti ho dato del vecchio. No, ma eccetera. Ti voglio spiegare che sì, il calcio e i ritmi internazionali possono essere diversi dal campionato, e quindi noi paghiamo questo gap. Perché ti faccio un esempio: se un giocatore fa 30 metri, arriva al limite, e da noi gli fischia, e poi si scontra con uno, gli fischiano un fallo, allora fermi tutti, 30 secondi, punizione. Magari all'estero non ti fischiano niente e tu ti devi rialzare e rifare 30 metri. E quindi all'indietro. I ritmi, i recuperi possono essere diversi, oltre lo spirito, perché se no non siamo inferiori a nessuno noi. Almeno non credo, le nostre squadre possono battersi con tutti tranquillamente, però manca quel qualcosina o quel campionato che non si allena al campo internazionale. Sì. Mentre il calcio inglese è calcio internazionale, insomma, a tutti gli effetti. Torniamo in compagnia di Dino Zoff, poi più tardi ci sarà spazio come sempre per i vostri interventi in diretta all'800 24 0024. Dino Zoff, presidente, perché in questo momento c'è, poi torniamo agli allenatori subito, ma perché c'è un grande e presunto, ma fino a un certo punto, andirivieni di panchine, di allenatori e di cosa. Allora, la domanda che molti si pongono è: ma con quali criteri una società sceglie un allenatore? Esistono dei criteri per l'esperienza che hai fatta tu, o si va a spanne, a immagine e a orecchio? No, criteri base non ce ne so. Se vogliamo considerare criterio come gioca la squadra, dove è stato prima, i risultati che ha avuto, il comportamento che ha, ecco, questi possono essere criteri. Poi certamente uno la vede in una certa maniera, uno in un'altra, quindi però i criteri sono questi, ecco: l'esperienza che va, la tranquillità che può dare o la carica che può dare. Sì. Queste sono poi magari possono essere anche cose soggettive, dove uno le vede in un modo, un dirigente in un altro, però queste sono i parametri di fondo, le prerogative di fondo. In queste ore, tra l'altro, è riunito il CDA della Juventus, proprio in queste ore, e può darsi, addirittura non si esclude, io lo escluderei, se mi ricordo qualcosa della Juventus, ma è anche vero che adesso è cambiata, c'è chi dice che già in giornata potrebbe esserci l'annuncio di un nuovo tecnico. Allora, su questa base, due o tre considerazioni che porgo a te, ovviamente. Il primo, come è stato trattato Ranieri complessivamente in queste due stagioni, soprattutto nell'ultimo? Ma guarda, quello che è stato trattato è secondario. Potrei dire molto molto peggio, molto di più. È stato messo sulla graticola, giustamente o ingiustamente, quello non si sa, o dalla critica, o può essere messo anche dai dirigenti che non lo ritengono che abbia fatto abbastanza, ma questa è una prerogativa dei dirigenti che hanno la facoltà di decidere di voler cambiare o meno, quindi è nella logica delle cose. Non tutti andiamo bene a tutti. Se per i dirigenti della Juventus doveva fare di più, loro hanno la responsabilità, si prendono la responsabilità e lo cambiano, ma non vedo particolari problemi, ecco. Sì. Pare che i due candidati principali per la Juventus siano Spalletti e Gasperini, e allora mi torna in mente, cioè ti riproporrei la domanda di prima, cioè quella delle caratteristiche, nel senso che, poiché probabilmente anche il Milan cambierà panchina, allora, visto da uomini della strada, così a grandissime linee, a me verrebbe una riflessione, cioè che una squadra che privilegia di più il gioco, come il Milan, potrebbe essere più indicato per Spalletti, una squadra più di, come dire, temperamento, come è sempre stata, ma in questo momento in particolare è la Juventus, forse sarebbe più da Gasperini. E invece immagino che un dirigente faccia ragionamenti diversi anche. Ma guarda, siamo un po' sofisticati e uno può giocare bene da una parte o dall'altra. Un allenatore deve saper far giocare bene la propria squadra, le caratteristiche della squadra che ha. Siccome non si può comprare 11 giocatori, ma puoi inserire qualcuno, allora un buon allenatore dice: questa è una squadra tecnica, ha bisogno di giocare, questa ha bisogno di giocare in un modo diverso, però per vincere bisogna sempre giocare bene, oppure hai dei grandissimi giocatori, che questa è la base per vincere. Però insomma, un buon allenatore tira fuori il meglio dal prodotto che ha. Sì. E quindi saprà lui se è inutile. E se tu hai una squadra che vuoi fare il Milan e non eri il Milan dei tempi di Sacchi, anche lui ha vinto pochissimo, sì. Ed era tre volte più forte di tutte le squadre che componevano, a parte un po' il Napoli, il campionato italiano. Per giocare in un certo modo, per vincere, devi essere tre volte più forte. Certo. Non c'è questo è una riflessione che ogni tanto si dimentica con... No, anche perché poi è arrivato Capello, ha vinto 4 anni di seguito con meno uomini. Certo, se vogliamo ripassare un po' di storia. Ma la memoria... La memoria... No. Nemmeno poi tanto storia antica, tra l'altro, perché stiamo parlando di 20 anni fa scarsi, e comunque andò esattamente così. Tu dicevi in base a come fanno giocare, a come hanno giocato le loro squadre quest'anno. E hai detto, in pratica, adesso faccio una piccola parafrasi, ma insomma il concetto era più o meno del rapporto qualità-prezzo, cioè in base alla qualità della squadra, chi è andato oltre, chi è andato meglio, se non altro. Chi è andato meglio quest'anno, a parer tu, in Italia? Ma chi è andato meglio, senz'altro il Genova è andato meglio, ha fatto benissimo, la Fiorentina fa il suo, il Milan ha avuto una parentesi un po' per cacao, un po' qualche problemino dietro, se no poteva contendere il campionato. La Juventus credo che ha avuto una flessione anche lei, che ci sta, bisogna essere furbi a vedere quando c'è la flessione di perdere meno punti, adattarsi magari a un momento diverso e quindi accontentarsi di meno. lì fa parte certo. del modo di vedere le cose, ecco. L'Inter ha fatto il suo, di altro non so, il Cagliari ha fatto bene certamente, il Catania stesso di Zenga ha fatto bene. Senti, stavo guardando i messaggi che scrivono in tempo reale gli ascoltatori, ce ne sono due o tre dopo l'ultimo discorso che hai fatto, non so, Moreno Gialella, Cristiano a Genova, altri ancora, no, non posso citarli tutti, che ricordano un episodio al contrario, cioè tu hai ricordato di come Sacchi vinse molto poco, tant'è vero che quando arrivò Capello con una squadra già più vecchia e già depauperata vinse 4 scudetti di fila. Qui qualcuno si ricorda che dopo le tue vittorie con la Juve nel 90 arrivò un certo Maifredi che ti fu preferito, o sbaglio? No, appunto dicevo che sono le lamentele su Ranieri. Io insomma, vinsi Coppa UEFA e Coppa Italia nel periodo del grande Milan, del certo. grande Napoli, terzo quarto in classifica. Come insomma, no? Quindi feci dei risultati strabilianti con 19 giocatori, mm-hmm. non con 23. Quindi in tutte e tre le competizioni. Se andiamo a vedere i numeri, erano così, però era il momento di Maifredi, giornalisticamente sembrava avesse inventato il calcio, eccetera. Non ce l'ho con lui. No, con la Nouvelle Vague ce l'hai. No, perché come sempre da noi si vestono le cose vecchie col vestito nuovo, come dice Guccini, non so se certo. Certo. Allora sembra diverso. Senti, secondo te Mourinho ha sfruttato nel senso migliore del termine, come nel senso che vuoi tu, comunque un lavoro, un telaio collaudato, una forza anche atletica assemblata negli anni precedenti, oppure ha innovato, oppure ha portato qualcosa di diverso? Ma guarda, portava qualcosa di diverso se passava in Coppa dei Campioni e arrivava alla finale. Così è rimasto più o meno come Mancini, ha vinto il campionato o lo vincerà, insomma, però in Coppa è uscito agli ottavi, ha fatto fatica anche a qualificarsi, quindi direi che però i numeri di Mourinho sono buoni, quello che ha fatto prima, quindi non è, insomma, i numeri al di là del personaggio che è interessante per buona parte della stampa e tutto, perché crea contrapposizione, notizia, pro, contro, è vero, è giusto, è sbagliato, eccetera. Però i numeri sono numeri, io non mi scosto mai dal concreto, dalla realtà. Però certo. sono anche pronto a dire che quest'anno, insomma, è stato nei limiti normali. Ecco. Sì. Direi di sì. Domani sera allo stadio per Lazio-Sampdoria, finale di Coppa, ti fare Lazio? Beh, insomma, Lazio ci ho passato una parentesi lunga di vita, piacevolmente, eccetera, e quindi certamente sono per la Lazio, anche se è una squadra strana che non sai mai quello che sei capace di fare. Però, insomma, io credo che quando sente l'avvenimento a qualità per trasformarsi, sì. è vero. Senti, e invece immagino che da romano non ti perderai una finale di Coppa dei Campioni romana quella sera del 27 maggio, che ormai non è poi così lontano, poi sono un paio di settimane. Chi ti piacerebbe così sulla carta? Cioè, ti piacerebbe che vincesse di più, cioè, o comunque che si affermasse questo calcio palleggiato o quel calcio che è anche palleggiato ma che è un po' più articolato? Ma guarda, sono veramente in difficoltà, perché a me gli spagnoli piacciono, perché giocano anche non le squadre di vertice assoluto, vedo che insomma le squadre partono, giocano, cambiano, ecco. Però è uno scontro di come dicevo prima, di due filosofie che me vanno benissimo, e perciò vinca il migliore, ma con convinzione, certo, con convinzione. Convinzione vera. La prima volta che ci vediamo ti metterò da parte tutti i messaggi di affetto che sono piovuti su questo display in questa mezz'ora per te. Non li leggo adesso perché sennò sarebbero sinceramente imbarazzanti. non saranno, sarà più di uno, perché sennò... No, sono tanti, sono davvero tanti. Magari chiudiamo il collegamento e poi ne leggo qualcuno agli ascoltatori per non mettere in imbarazzo te. Vabbè. Un abbraccio, Dino. No, un abbraccio a te e a tutti. Saluto. Grazie, grazie, buona giornata. Beh, non ci sarebbe che l'imbarazzo della scelta a leggere i messaggi arrivati per Zoff da Francesco Campione, che lo sottolinea come campione e uomo autentico e vero, e che augura buon lavoro. Grazie ricambiato. C'è chi domanda chi fu quel giocatore brasiliano che colpì col pallone di testa con la sua parata decisiva a un minuto dalla fine nello storico 3-2 al Brasile, e questo ascoltatore Andrea Cone ipotizza Leandro, no, era Oscar, era uno dei due centrali brasiliani. E poi c'è chi, non so, Gianni da Udine, carina questa, mia madre è di San Giovanni al Natisone, pochi chilometri da Mariano del Friuli, che è il paese di Zoff, vi ho abitato fino a 5 anni, nel 72 ne avevo 9. Mi piaceva il calcio, non avevo una squadra del cuore, poi il mio vicino di casa Zoff passò dal Napoli alla Juve e iniziai a tenere per la Juventus. Poi il destino ha voluto che iniziassi a giocare anch'io da portiere, e a quei tempi il portiere era Dino Zoff, a cui voglio davvero molto bene, un saluto caloroso a lui, Gianni da Udine. Potrei andare avanti un bel po', e invece sentiamo Massimo dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Innanzitutto, dica. C'è la possibilità di rivedere quella bella trasmissione che faceva degustando vino? No, no. Peccato. No, ci sentiamo per radio. Sì, sì. Senta, io volevo parlare un attimino così del momento della Juve, argomento che so che non è che la passione più di tanto, però secondo me importa questa semplice riflessione, cioè in che percentuale la proprietà vuole investire e seguire la squadra, perché il management che hanno scelto sono tutti degli ottimi manager, io non discuto, parlano di calcio sostenibile, hanno rimesso un po' a posto anche i conti, però non si sanno muovere, diciamo, nel mondo del calcio, l'hanno dimostrato scegliendo una guida tecnica che... poi cioè questi eventi sono tutti concatenati, perché anche la guida tecnica ha portato dietro dei preparatori atletici che evidentemente non avevano l'esperienza per far giocare una squadra a livello internazionale. Ne ha parlato anche con il dottor Monti, mi ricordo in trasmissione, che mi pare che ne capisca, e quindi anche hanno speso e hanno speso male scegliendo dei giocatori che non ne sono all'altezza. Ora ricordiamoci che avevano quasi venduto le Grottagli e quasi venduto Chiellini, che aveva subito preso un cazziatore da Ranieri memorabile. Cioè, se il programma è quinquennale, io come tifoso preferisco che praticamente investa sui giovani. Cioè, io preferisco vedere un De Celli, un Giovinco in campo, che un Thiago, un Poulsen qualsiasi. Sì, Massimo, poi non credo che di soli giovani si possa campare. In generale, quando si sentono questi discorsi, l'impressione, cioè il presupposto sembra che la Juve, non so, sia non in classifica, oppure non so, staccata di 40 punti, oppure che la Juve è una squadra che in condizioni di inferiorità di rosa e di organico se l'è giocata fino a poche giornate dalla fine. Se lei mi parla di troppi infortuni, allora siamo d'accordo, perché lì qualcosa evidentemente non è tornato. Se parliamo di una dirigenza che certamente si deve fare, come si usa dire, anche questo è un dato oggettivo, perché nessuno nasce imparato, ma sento un pochino di catastrofismo. Poi leggo anche altre cose. Era Paolo Isidoro, giocatore brasiliano. Paolo Isidoro non ha mai giocato contro l'Italia. Paolo Isidoro era un nazionale Brasile che non ha mai giocato, che non ha giocato quella partita. Qualcun altro dice che Oscar era terzino sinistro del Brasile, si chiamava Junior, Leo Junior, il terzino sinistro del Brasile allora, che poi terzino si fa per dire, perché alla faccia del terzino che giocatore era, cioè, quello era Oscar e basta, non è che adesso possiamo metterci qua a riscrivere la storia di una partita come Italia-Brasile dell'82, no? Nicola, provincia di Bari, buongiorno. Non so, magari sì, ma no, sto pensando che magari leggono troppo Wikipedia, Google, tutte quelle robe su cui queste cose su cui si trovano di quelle elegantemente, come si può dire, di quelle sciocchezze, di quelle imprecisioni che sinceramente lasciano ogni tanto basiti, di tanto in tanto. Nicola, mi scusi, dica. Sì, grazie per l'opportunità, prima certo. di tutto. Io volevo porre soltanto questo quesito. I portieri italiani, a mio avviso, hanno in questo momento un grandissimo problema. Non dominano l'area, stanno tutti quanti. Prendiamo l'esempio eclatante di Buffon, del quale state parlando. I gol che ha preso con il Chievo trovano Buffon fermo sulla linea di porta. Adesso si difende a zona anche sui calci d'angolo, quindi non ci sono più quelle lotte belle furibonde corpo a corpo per cui ognuno ha il suo corrispettivo. A mio avviso è doveroso che i portieri, avendo l'utilizzo delle mani, siano i padroni dell'area piccola, quantomeno. Per cui quando vedo colpi di testa dalla linea dei 3 metri e vedo i portieri restare chiaramente inermi, non c'è più nulla da fare e mi chiedo, ma per quale motivo nessuno ne parla e nessuno ne discute? Per quale motivo dobbiamo vedere Cech, dobbiamo vedere Giulio Cesare, gli unici che escono, oppure Van der Sar, per esempio, gli unici esempi di come il portiere possa essere il responsabile dell'area? Mi spiego? No, si è spiegato benissimo. È quel perché nessuno ne parla che mi dà sempre un piccolo fremito, perché sembra che questo dovrebbe essere il dibattito del paese, no? su questo tema, ma senza arrivare a quello siamo assolutamente d'accordo. Buffon è sempre uscito, Buffon è sempre uno che l'area piccola era sua, in linea di massima, insomma. Comunque se adesso non è così, o comunque in certe partite non è così, è proprio perché ha accusato oggettivamente una flessione, da cui io mi fido del parere di Zoff. Certamente si risolleverà, sempre che la sua struttura non abbia invece dei problemi che gli possono creare delle pause lunghe come quella che c'è stata quest'anno. Cioè, no, se parliamo di monumenti, noi ci eravamo abituati a Zoff, l'ha ricordato lui prima, lui ha giocato 11 campionati di fila senza un infortunio, eh. È vero che allora i campionati erano a 30 partite, non a 38, però provi a moltiplicare 30 per 11 e insomma, arriverà a ricavare dei numeri discretamente impressionanti. Non vorrei, visto che oggi abbiamo già parlato con Zoff e mi sembra che la parte, come dire, storica sia soddisfatta, non vorrei dimenticare, visto che poi nell'ultima parte ci sarà il collegamento col giro, non vorrei dimenticare la rubrica classica in cui si ripassa la storia del calcio. E allora, che cosa è accaduto il giorno 12 maggio negli anni con affidato a Nicola Filippone? Sembra ieri. 12 maggio 1963. In un'amichevole disputata a San Siro, la nazionale di Fabbri infligge al Brasile, campione del mondo in carica, un umiliante 3-0. Tra i protagonisti della gara, il mediano del Milan Trapattoni, perfetto in marcatura su Pelé, anche se Orei non è in buone condizioni e rimane in campo solo nella prima mezz'ora. Gli azzurri passano al 35esimo con Sormani e raddoppiano 4 minuti dopo con un calcio di rigore, trasformato dall'esordiente Sandro Mazzola. La rete del definitivo 3-0, a un quarto d'ora dal termine, porta invece la firma di Bulgarelli. Da allora l'Italia incontrerà il Brasile altre 9 volte, ma riuscirà a batterlo solo in 2 circostanze. Nel 1973 in amichevole a Roma, con reti di Riva e Capello, e nel 1982 ai Mondiali di Spagna, grazie alla leggendaria tripletta di Paolo Rossi. E questo era il ripasso di oggi di Nicola Filippone. Guglielmo ha chiamato dalla provincia di Prato. Buongiorno. Buongiorno Garanzini. Senta, io volevo ritornare sul discorso di Balotelli. Non vorrei essere fuori argomento, insomma, visto che oggi avete avuto come ospite Zoff. E trovo assolutamente infelici le battute, le uscite che sono state fatte da alcuni nostri esponenti politici. Uno sulla metropolitana di Milano, sulla tramvia, e l'ultima sulla società multietnica. Indipendentemente dal fatto che si debba o no accettare l'immigrazione, eccetera, ma trovo queste battute e queste uscite dannose per il contesto sociale dei giovani che già vivono qui in mezzo a noi, che praticano sport, e soprattutto sentendo lo sport come un alto collante sociale, visto che Dino Zoff prima parlava di etica, aiuta a formare moralmente, eticamente anche i giovani. Quindi penso che queste battute siano state veramente fuori luogo. Sì, ma non c'entrano nulla con Balotelli, però, Guglielmo, mi scusi, No, c'entrano nel senso che danno un messaggio, anche se non c'entrano nulla a livello, diciamo, politico. Sì, ma lei è partito con Balotelli, no? E quindi io mi aspettavo che arrivassimo a discorsi, peraltro già sentiti, ma che immagino si ripeteranno nel tempo, perché da una parte Balotelli mi sembra che non cambi, dall'altra mi sembra che Balotelli sia sempre un pochino più nel mirino, per fortuna adesso in un modo diverso da quella sera della vergogna a Torino, però comunque che questi problemi sussistano, se no l'avrei deviata subito su Cruciani stasera, insomma, perché mi sembra che siano altre le riflessioni che fa lei. Io poi le condivido dalla prima all'ultima parola, persino quelle che lei ha sottinteso. Era soltanto un problema di compatibilità con il programma, tutto qua. Guglielmo, grazie. Abbiamo qualche voce registrata da Sky da ascoltare, così a titolo di documentazione. Per esempio, quella di Antonio Conte, allenatore del Bari, che insomma, sta sperando, e lo ha detto anche senza nemmeno troppo nascondersi, sta sperando in queste ore, in questi giorni, di essere lui il prossimo allenatore della Juventus. Poi vi ripeto, è in corso un CDA a Torino, non ci sono ancora esiti precisi. Si era sparsa la voce che questo CDA desse un'investitura ufficiale al successore di Ranieri. Io a 3 giornate dalla fine del campionato mi permetterei di dubitarne, ma tutto può sempre accadere. Ma i candidati entrati in conclave, insomma, quello che si è saputo, cioè i favoriti da per la fumata bianca, sono Spalletti e Gasperini, non Antonio Conte. Questo non impedisce a Conte, che è giovane ma ambizioso, e lo è anche sempre stato, di sperarci e di non nascondersi. Sentiamo. Non è questione di sentirsi pronto, sono luoghi comuni questi qua che lasciano il tempo che trovano. No, il futuro mio non è ancora assolutamente scritto, nel senso che, ma io dico, mai dire mai in tutte le cose. Antonio Conte, ripeto, che ha portato in Serie A il Bari quest'anno, che resterà lì se non c'è, resterà a Bari, e questo è l'accordo già raggiunto con Matarese dopo un campionato brillantissimo e vittorioso, resterà lì a meno che, e la clausola è chiara, a meno che non sia... che non sia la Juventus a farsi viva, è solo la Juventus. Che Junior fosse il terzino sinistro di quel Brasile ci sarebbe da discutere, scrive un ascoltatore. No, non c'era da discutere, era il centrocampista esterno di sinistra di quel Brasile, come Leandro era quello di destra. Se lei mi trova un esterno sinistro diverso da Junior in quella partita e in quel mondiale, che ho visto tutto con i miei occhi dal campo, tra l'altro, e nonostante i neuroni comincino a declinare, fino a lì ci arrivo ancora. Se lei me ne trova un altro, io, per carità, sono disposto a fare ammenda. Che poi Junior, una volta arrivato in Italia, a Torino prima e a Pescara poi, giocasse da centrale di centrocampo nel ruolo che in quel Brasile si alternavano Cerezo o Falcao, questo è un altro discorso. Club Brasile giocava da centrocampista esterno di sinistra, alias anche terzino, quando occorreva, evidentemente, quando c'era un attaccante che puntava da quel lato. Ha chiamato Claudio, sì, abbiamo anche però la rubrichetta del Giro d'Italia. Sentiamo Claudio da Torino, buongiorno. Sì, salve, io continuerò a fare il noioso su Italia-Brasile, perché avevo 13 anni, sì, e vivevo di calcio. Sì. Paolo Isidoro entrò nel secondo tempo. Anche per me il colpo di testa fu di Paolo Isidoro. Comunque, a parte questo... No, il colpo di testa è di Oscar. Oscar lo ha sempre rivendicato. Anch'io avevo però il ricordo di Paolo Isidoro. Paolo Isidoro nel secondo tempo sono sicuro che... Ma può anche darsi che nel finale sia entrato. Questo non lo so, però il colpo di testa di Oscar l'ho rivisto non molto tempo fa. Tra l'altro. E volevo raccontare di quel mondiale, anche se può sembrare noioso parlare di tanti anni fa così. Sì. Di un'intervista, perché l'Italia era Vigo, all'inizio, quando c'erano tutti questi Claudio, visto che è una Marcord, io le chiedo un minuto, perché le chiedo di restare in linea un paio di minuti, sa perché? Perché c'è il collegamento col Giro d'Italia, non è stato facile agganciare agganciare il nostro inviato al giro, e allora chiederei alla regia di far partire la sigla. Voci dal giro. Panello. Dunque, Campanello ci segnala che Piero Augusto Stagi è in linea. Buongiorno Piero Augusto. No, è caduta la linea, ci segnala il campanello, era quello che ci voleva. Allora facciamo una cosa, torni in linea lei Claudio. Ok. Mi scusi, Niente. Sai, famosi belli della diretta. Proprio perché avevo 13 anni e vivevo di calcio, di Juve, d'Italia, l'Italia aveva 6 giocatori della Juve. Sì. È una cosa curiosa che poi non ho più visto, così, era il fatto che fosse intervistato Massaro a Vigo, perché Massaro faceva parte di quei 22, certo. E a Vigo ovviamente l'Italia era trattata malissimo, cioè sembrava proprio una squadra destinata a uscire eccetera, e un giornalista che penso sulla Rai eccetera chiese a Massaro, che portava una macchina fotografica, quale sarebbe stata la foto più bella della spedizione in Spagna, e Massaro profeticamente disse il gol di Tardelli in finale. Ovviamente si misero tutti a ridere, no? Però poi è una cosa che poi non ho più visto, ricordare questa cosa, però è una cosa simpatica, è detta, quando l'ha detta Massaro è come se io dicessi non lo so. Va bene, grazie per questa Marcord, Claudio. Allora, mi pare che il collegamento con le insomma sulle strade che portano a San Martino di Castrozza sia particolarmente difficile, e allora la sigletta l'abbiamo sentita, la diamo per sentita col campanellino, e inseriamo una conversazione di Petacchi, cioè con Petacchi, doppia vittoria, non credo che oggi riuscirà a triplicare visto il genere di tappe di arrivo, terrà qualche altra cartuccia per il prossimo futuro. Sentiamo la maglia rosa, Petacchi. Penso di essere andato veramente forte, sono rimasto sempre davanti e avevo delle buone sensazioni. Quando ho visto l'arrivo ci ho creduto, perché non ho più visto Cavendish dopo il primo giro, e quando mi hanno detto che ero già in rosa prima dell'arrivo ho tenuto duro il più possibile per arrivare coi primi, e poi sono riuscito anche a fare una grande volata. Pippo è partito un pochino lungo e niente, sapevo di avere la ruota Farrar e sono partito con un dente più agile, ho fatto veramente anche oggi una bellissima volata. Fare una volata dopo una salitella non è come farla in pianura, quindi penso che ho dimostrato di avere un'ottima condizione e di aver cominciato questo giro al meglio. Voci dal giro in collaborazione con il cambiamento è nell'aria. Ford dà più valore agli incentivi statali. Oggi puoi avere il nuovo Transit Connect Turbo Diesel Common Rail a 6.500 euro sabato 16 e domenica 17. Finita la parentesi col Giro d'Italia, colpo di testa di Oscar, scrive un ascoltatore bolognese, di cui non riesco bene a leggere la firma, vistora il filmato però precisa, no? Nel senso che, dato che qua non si scherza e non si stanno a pettinare le bambole, secondo un modo di dire abbastanza in voga e in auge, gli ascoltatori si scatenano, cominciano a consultare i sacri tomi, ma qualcuno si spinge più in là, e quindi questo bolognese che aveva filmato in casa l'ha visto, ed è Oscar. Ma su questo direi che proprio i dubbi ce n'erano pochini. Poi Paolo Isidoro è entrato, mi scrive qualcun altro, a 20 minuti alla fine al posto di Serginio, benissimo, ma questo non toglie che Paolo Isidoro in quella partita non abbia lasciato particolari tracce, tantomeno quel colpo di testa finale. Alessandro, in linea da Vercelli, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Grazie tanto per l'intervento che prego. Mi concede. Senta, io volevo solo dire due cose su Ranieri, la Juventus, così giusto per parlare un attimino. Secondo me Ranieri non è un allenatore ideale per la Juventus, nonostante che sia una gran brava persona, che è stimabilissima, rispettabilissima, però purtroppo per allenare grandi squadre, secondo me, c'è bisogno di allenatori anche un po' arroganti, mi passi il termine, cioè come può essere lo Mourinho, come lo poteva essere un Lippi, come lo era un Capello, nel senso che, secondo me, quando si fa fare un'intervista a fine stagione, come peraltro sta facendo Ranieri, che tiene su una squadra che messa in piedi domenica su domenica con vari infortuni, ed è stato abilissimo a fare questo, però purtroppo non può dire in una società come la Juventus abbiamo già fatto tanto, l'obiettivo era arrivare in Champions, cioè secondo me è meglio magari ottenere anche una posizione in classifica inferiore, ma dire ci spiace, volevamo vincere a tutti i costi, secondo me, questo è il mio pensiero, quando si allinea una squadra come Juventus, Inter e Milan, questo è il mio modesto pensiero. E poi mi permetta, se posso ancora avere qualche secondo, di un attestato di stima a Dino Zoff, che secondo me è stato un personaggio grandissimo nel mondo del calcio, rispettabilissimo, e quando prima ha parlato di etica, secondo me la metterei a caratteri cubitali sugli organi, su tutti i giornali che usciranno domani, per quello che ha detto, perché veramente è ciò che si è perso davvero nel calcio. Grazie per lo spazio che mi ha concesso. Alessandro, sì, indubbiamente comunicare, a parte Zoff e la sua etica, che siamo fuori concorso evidentemente, è importante la comunicazione, ha il suo peso, hanno il loro peso gli slogan eccetera. Io penso che sia molto più realista Ranieri oggi quando dice di più, o comunque molto di più non potevamo fare, di quando qualche mese fa continuava a dire lui, Cobol, tutti, solo che adesso paga lui ovviamente, a dire il Chelsea qui è la nostra portata là, lo scudetto qui, lo scudetto là. Diciamo che c'è stata poca coerenza forse di comunicazione, e anche questo è un aspetto che va tenuto presente nel giudizio, in un giudizio finale. Grazie a Flavio Suardi in redazione, a Fabio Cantadori in regia. Giornale Radio, per noi appuntamento a domani.